Bene, stavamo vedendo un po' il panorama delle opinioni teologiche recenti, attuali sul peccato originale, sull'origine dell'uomo, e guardando questo contributo qua di Erio Castellucci, che aiuta ad avere un po' uno schema di massima. Avevamo identificato quattro punti, diciamo quattro ambiti del sapere da cui vengono possibili obiezioni alla visione del peccato originale, così come la Chiesa ce lo presenta. Uno, ne avevamo già visti tre. Un primo ambito problematico è quello che viene da un certo modo di fare esegesi, quindi un problema esegetico: se il significato dei primi capitoli della Genesi, quelli lì in particolare, sia puramente allegorico, simbolico, o invece abbia anche si riferisca comunque a un evento nella storia, un evento all'inizio dei tempi, all'inizio dell'uomo, E un secondo tipo di problema era quello più di carattere dogmatico. L'opinione di alcuni è quella che il dogma del peccato originale si sia formato con un contributo fondamentale di Agostino, ma più che un contributo fondamentale, per alcuni una sorta di errore da parte di Agostino, che poi la Chiesa avrebbe fatto proprio e quindi integrato nella sua dottrina, ma che invece sarebbe bene rivedere tutto. Ovviamente questa è una posizione piuttosto radicale, e quindi anche un po', esatto, out. Un altro tipo di ecco, un altro ambito in cui sorgono possibili questioni è quello scientifico, su cui poi oggi adesso faremo una parte di lezione, poi ci concentreremo di più anche su questo ambito. Una certa visione delle origini dell'uomo, quella prodotta con l'evoluzione nell'arco di molto tempo, con l'apparizione di forme umane molto, insomma, più rozze all'inizio, poi via via più evolute, sembra poco conciliabile con l'idea di uno stato iniziale dell'uomo, come quello appunto dotato dei doni preternaturali, e che diciamo un uomo che già ha la pienezza in un certo senso del rapporto con Dio, e anche ecco. Quindi come immaginare uno stato originario caratterizzato dall'immortalità, eccetera. E quarto ambito di problemi viene un po' nell'ambito, diciamo, filosofico o della morale. Il punto che altre volte abbiamo un po' evidenziato sarebbe questo: ci risulta un po' difficile, ostico, accettare che, se parliamo in termini di colpa, una colpa di un altro ricada su di me, io me la ritrovi anch'io come colpa. È difficile, uso parole di Castellucci, comprendere se e come la libertà e la responsabilità mie dipendano da una colpa altrui, una colpa di difficile imputazione. Insomma, sembra che questa dipendenza di me dalla colpa di un altro contrasti con la sensibilità etica contemporanea, che è molto personalista, che se è colpa mia è colpa mia, ma non posso avere io una colpa che mi viene da te. Questo vedremo, tra l'altro, stesso linguaggio dei documenti attuali del catechismo, in fondo va molto incontro a questo tipo di obiezione, perché non parla mai di una colpa personale nostra, ma sempre di una condizione, di uno stato. Comunque poi su questo diremo delle cose. Quindi questi sono, ecco, per dire alcuni dei dei problemi, delle obiezioni, delle questioni sollevate e ci spingono a riflettere meglio, anche più a fondo, sulla verità del peccato originale. Adesso io volevo presentarvi, sempre seguendo questo autore, due dei principali modelli, sono due un po' di tipo appunto estremo, né uno né l'altro di per sé accettabili, ma che esprimono due tendenze nell'ambito della teologia, due tendenze che in qualche modo sono un tipo di, ciascuna è una visione del peccato originale. Poi alla fine, visto dopo queste due tendenze, passeremo invece a vedere anche i documenti attuali del Magistero, per vedere il linguaggio che usa il Magistero e come diverse anche delle questioni trovano effettivamente una buona sistemazione. Allora, possiamo vedere due tendenze, diciamo, un po' senz'altro tra di loro opposte. Una tendenza che Castellucci chiama letteralista e una che chiama simbolista. Un modello letteralista che tende a interpretare in modo letterale, in modo letteralmente storico, i racconti di Genesi e quindi tutto quello che in quei racconti si dice riguardo all'uomo. Io non approfondirò molto questo, non lo approfondirò molto, cioè qui si tratta di non prendere, cioè prendere per storico in un senso molto forte quello che dice la Genesi. Non credo che gli autori che sostengono questa idea prendano tutto, però molte cose sì. Quindi per esempio fanno poi molta fatica a pensare a come si può immaginare l'origine dell'uomo anche alla luce dei, un po' dei dati scientifici, quindi tendendo ad avere un forte sospetto nei confronti dei dati scientifici. E un secondo modello invece è dall'estremo opposto, simbolista, cioè assorbe completamente il peccato originale nel concetto di peccato del mondo. Cioè il peccato originale sarebbe, non è una realtà storica avvenuta in un certo momento, ma un simbolo della situazione umana di tutta l'umanità, della fallibilità creaturale, del fatto che l'uomo di per sé, la natura umana, è fallibile per vari motivi. Però di fatto il peccato originale non è qualcosa che è avvenuto nella storia, non è stato causato, cioè, provocato, vissuto dal primo uomo, dalla prima donna, ma quel racconto, il racconto biblico, è puramente simbolo della realtà che noi constatiamo nell'uomo, e a cui si vuole dare una certa così, spiegazione, una certa descrizione con il racconto di Genesi. Allora, vediamo un po' in dettaglio questi due modelli. Sul primo io dirò solo come viene, diciamo, già di per sé confutato dai documenti del Magistero, e non mi soffermerò molto, anche perché non mi sembra che sia oggi un modello molto, molto diffuso. Invece sul secondo vedremo anche un po' di nomi, un po' di persone che sostengono opinioni che rientrano nel modello simbolista. Diciamo, i documenti del Magistero recenti, io ne citerò due o tre, parlano chiaramente del fatto che la scrittura non va semplicemente presa alla lettera. Per esempio, Divino Afflante Spiritu, enciclica, se vi ricordate, di Pio XII, 1943, sulla scrittura, una delle encicliche molto importanti per l'interpretazione della scrittura, dice il Papa: a nessuno che abbia un giusto concetto dell'ispirazione biblica farà meraviglia che anche negli scrittori sacri, come in tutti gli antichi, si trovino certe maniere di esporre e di narrare. propri in certi modi iperbolici o approssimativi, talora anzi paradossali, che servono a meglio stampare nella mente ciò che si vuol dire. Quindi cioè il Papa fa riferimento al fatto che appunto ci sono forme che erano del parlare comune di quegli uomini, erano modi di esprimersi, modi di dire. La verità biblica risalta meglio nella sua sostanza quando la si distingue dalle forme umane in cui viene espressa. Cioè, occorre capire che tipo di linguaggio sta usando l'autore per poterlo interpretare nel modo giusto. Poco più tardi, nel 48, c'è una lettera della Pontificia Commissione Biblica al Cardinal Suhard, Suhard, se non c'è l'H, okay, cioè l'H c'è ma non si pronuncia, Suhard, che riguarda i primi capitoli di Genesi, Genesi capitoli dall'1 all'11. La Commissione riconosce la permanenza di grosse questioni, come quella delle forme letterarie di Genesi capitoli 1-11, che definisce questione oscura e complessa, quella di questi capitoli. Non si può negarne né affermarne in blocco la storicità, senza applicare a torto ad essi, a questi capitoli, le regole di un genere letterario sotto il quale non possono essere classificati. Cioè, se uno dice in blocco tutto questo è storico, oppure in blocco tutto questo non ha niente a che vedere con la storia, sbaglia in entrambi i casi. Non si può fare né l'una né l'altra. In una parola, radunare senza pregiudizi tutto il materiale... questa è un'altra cosa. Quindi, poi, altro punto, altro documento importante, il testo recente, parte dei Verbum che ribadisce, e anzi direi che dà ancora più spazio a quello che già diceva Pio XII, nella Divina Flante Spiritu, dove la conoscenza dei generi letterari è molto importante per cogliere il senso che l'autore voleva dare alle scritture. L'autore umano è vero autore, ci sono due autori, Dio autore principale e l'autore umano che è vero autore, quindi e si esprime nelle forme, Dio si è servito di questi autori nel possesso delle loro facoltà e dei modi anche di esprimersi che avevano. Quindi la Dei Verbum, ecco, se vogliamo aiutare, va ancora di più nella direzione di dire attenzione, dobbiamo capire bene il significato dei testi, non prenderli semplicemente alla lettera. Vabbè, io penso che non ci sia bisogno di fermarsi di più su questo, dirò solo che Pio XII nel 50, scrive un'enciclica molto importante per riguardo la Humani Generis, riguardo al tema anche dell'origine dell'uomo e al tema della teoria evoluzionista che si stava sviluppando, stava prendendo sempre più corpo. E il Papa diceva: il Magistero della Chiesa non proibisce che in conformità all'attuale stato delle scienze e della teologia sia oggetto di ricerche e di discussioni da parte dei competenti in tutti e due i campi, cioè scienze e teologia, la dottrina dell'evoluzionismo, nella misura in cui essa indaga sull'origine del corpo umano, che proverrebbe da materia organica preesistente. La fede cattolica ci obbliga a ritenere che le anime sono state create immediatamente da Dio. Ciò tuttavia deve essere fatto in modo tale che le ragioni delle due opinioni, cioè quella favorevole e quella contraria all'evoluzionismo, siano ponderate e giudicate con la necessaria serietà, moderazione e misura. Puoi continuare. Quindi vuol dire che il Papa mostra apertura al fatto che la descrizione dell'origine dell'uomo possa essere quella che la scienza magari scopre, ricostruisce, quindi che... vedremo che non c'è questa stessa apertura, o perlomeno c'è un distinguo molto forte sulla questione monogenismo o poligenismo, ma sull'accettare, poi questo lo vedremo più tardi, sempre nell'Humani Generis, sull'accettare la possibilità di di un confronto aperto, sereno, serio con la scienza sull'evoluzione, quindi sull'origine dell'uomo, il Papa non ha problemi. Senz'altro questo significa anche evidentemente che il Papa non sostiene che vadano presi alla lettera i racconti di Genesi sull'origine dell'uomo. Ecco, vediamo invece l'altra tendenza, che sicuramente è quella simbolista, cioè interpretare in modo puramente simbolico il racconto delle origini e del peccato originale della Genesi, che è una tendenza in cui ci sono sicuramente molti più autori, molte più ipotesi, molte più teorie. E quindi proviamo a vedere un po' alcuni. Intanto, come viene definita un po' questa tendenza da Castellucci. No, anzi, in realtà un po' l'avevo detto, no? Castellucci mette in evidenza quale sia il problema di fondo del simbolismo, che anche questo altre volte abbiamo identificato. Cioè, nell'interpretazione simbolica completamente destoricizzata, cioè che nega ogni storicità ai fatti raccontati da Genesi, in questa interpretazione non è l'uomo che commette il peccato originale, ma diventa il creatore che avrebbe dotato l'uomo della fragilità poi espressa con la categoria di peccato originale. In fondo il grosso problema di chi toglie storicità all'evento peccato originale sta dicendo che il male che vediamo è la fragilità umana, l'attribuisce a Dio direttamente. E allora, un esempio di una posizione del genere è quella che dell'autore olandese, che già ieri avevamo in parte citato, che se non sbaglio si pronuncia Schoenenberg, giusto? che ha scritto, mi sembra, lui era anni 70, fine anni 60 o 70. 60, ecco. 65, sì. Bene. Che pensa il peccato originale come l'universale solidarietà di tutta l'umanità nel peccato, una solidarietà che si crea poco a poco nel corso della storia con la somma di tutti i peccati personali degli uomini e anche di quel peccato che diventa gradualmente, lui usa l'espressione di Giovanni, il peccato del mondo, cioè che tutto il contesto delle relazioni umane viene gradualmente danneggiato dal peccato. Il peccato non è una cosa che rimane solo in me come persona, ma che inquina tutte le relazioni. E il peccato di Adamo lui non è che lo neghi, però lo vede come uno tra i tanti, diciamo il primo, ma poi tra i tanti. Ecco, non è senz'altro un peccato che ha una particolare rilevanza e dal quale per noi discendono certe conseguenze, o che distingue questo peccato tra uno stato precedente dell'uomo e uno stato poi successivo di natura ferita. Quindi la visione di questo autore poi ha anche degli aspetti interessanti e importanti, perché effettivamente mette in luce molto come il peccato non sia realtà puramente individuale, ma che possa creare quelle che noi oggi forse col linguaggio le chiameremo anche strutture di peccato. Comunque l'uomo nasce in una situazione in cui è circondato un po' dal peccato. E peccato che avrebbe il suo culmine, il suo apice, nella condanna a morte di Gesù sulla croce. E lì il peccato del mondo raggiunge veramente il culmine. Una visione, anche sempre in questa linea simbolista, è quella di un autore francese, Mallarmé, che sostiene questo. Tanto dice: i testi biblici non ci dicono nulla che possa completare l'albero genealogico dell'umanità. Non nominano, teologhese a volte non è sempre così semplice linea, ma sempre comunque non nominano i testi biblici un essere che potrebbe trovare posto nel filum, nel ceppo, nella linea che arriva poi all'uomo moderno. La Bibbia non descrive un punto di biforcazione tra due linee di ominidi, cioè lui sostiene che l'uomo che Dio crea nel momento in cui lo vuole creare, in fondo non possiamo dire che sia che distingua da quello che era prima, quindi non si capisce bene come lui vede l'origine del primo uomo. Comunque, soprattutto quello che dice è questo: il peccato originale non si trasmette per via generativa, ma si trova dentro l'uomo, in quanto perché si trova già dentro l'uomo? In quanto questi è solidale con la razza umana. Fino a qui uno potrebbe anche dire: bene, non mi interessa stabilire qual è il meccanismo con cui io contraggo il peccato originale, se è la generazione o no. Effettivamente, in quanto uomo ho la natura umana e punto, e ho il peccato originale. Il problema è che lui toglie la storicità al primo peccato. Il problema è questo, che dice: il peccato originale non è il peccato iniziale, cioè in senso temporale, ma l'origine di ogni peccato, cioè si situa nel peccato attuale come sua origine, si situa nel peccato di ogni persona come sua origine. Ad ogni modo, non è un peccato che è avvenuto nel tempo, in un certo momento, e lo dice chiaramente, dice: il racconto biblico del peccato originale non entra nella narrazione cronologica dell'inizio dell'umanità. Cioè, l'umanità si è sviluppata, le cose sono... Il peccato originale non ha un momento nel quale è avvenuto. Quindi, cioè, è in qualche modo la radice di ogni peccato umano che commettiamo. Quindi è completamente tolto dalla storia del peccato originale. Quindi è tolto dalla storia anche uno stato, una condizione dell'umanità in cui l'umanità era posta da Dio nella condizione di pienezza, anche della filiazione divina, non si è mai dato una condizione del genere. Quindi, insomma, alla fine il male da dove viene? Bene, questo un altro autore, comunque, ecco, sono anche autori interessanti che hanno delle cose, adesso io metto in luce un po' l'aspetto forse negativo, ma Martelet che identifica Adamo con l'umanità, dice: Adamo è da identificare con l'intera umanità peccatrice. Uno stato originario e un particolare peccato originale non esistono in senso storico. I primi uomini nascono già feriti dal peccato. Per Martelet, questo stato originario, che non esiste, cosa sarebbe? Sarebbe la chiamata universale dell'umanità alla vita eterna, cioè qualcosa di virtuale, non è una condizione che si è data per un certo momento o tempo e poi dopo si è persa. È la vocazione dell'uomo alla vita eterna. Ma, cioè, è un senso completamente diverso da quello in cui la Chiesa ha sempre compreso le cose, senz'altro non è. E ecco, non so se è un commento dell'autore, cioè di Castellucci, è proprio una frase sua esplicita. Comunque, responsabile del peccato dunque è Dio stesso. Cioè, alla fine, effettivamente, Dio sarebbe quello che perlomeno ha accettato che l'uomo nascesse così, con un difetto di fabbrica, chiamato alla perfezione, ma di fatto però privo. Ecco, due autori significativi, perché sono citati spesso nell'ambito del dibattito sul peccato originale, sono i famosi Flick e Alzeghi, che vi avevo già nominato, pensando che fossero so di che nazionalità, uno effettivamente è ungherese, Anzeghi, Zoltán Anzeghi, ungherese gesuita, morto nel 91, e Flick invece è un italiano, un milanese, Maurizio Flick si chiama, e lui nato nel 1909 e morto nel 79, anche lui gesuita, tutti e due insegnavano alla Gregoriana e hanno scritto un libro insieme, anche altri penso insieme, Il peccato originale, cercando anche effettivamente di, diciamo, di esprimere la dottrina del peccato originale in termini anche più consonanti con i dati scientifici. Ecco, loro anche cercando un po' di trovare questa conciliazione con la storia delle origini, come sembra venire fuori dalla paleontologia, e con la storia delle origini, come sembra venire fuori dalla Genesi, dicono questo, lo stato paradisiaco non è mai esistito. I doni della giustizia originale, quindi, non si sono mai dati nell'uomo in un certo momento, ma loro dicono hanno avuto un'esistenza virtuale, cioè l'uomo era chiamato ad arrivare allo stato paradisiaco, alla giustizia, ad avere quella, come e sarebbe dovuto essere il termine dell'evoluzione, ma di fatto non c'è mai stato a causa del peccato originale. Quindi il peccato originale c'è per loro, poi seguito anche dagli altri peccati, ha impedito all'umanità di arrivare a quella pienezza a cui era chiamata. Ora, a me sembra che, quindi loro dicono che il peccato originale è una virtualità frustrata, cioè è stata la frustrazione di quel progetto a cui Dio effettivamente aveva chiamato l'uomo, ed era possibile che l'uomo ci arrivasse, però a causa del peccato l'uomo non ci è arrivato. Così, anche qui a me sembra che il problema sia sempre un po' quello di, in questo caso il peccato originale c'è, ma lo stato dell'uomo prima del peccato originale non era ancora quello appunto dell'uomo in piena relazione con Dio, dell'uomo anche insomma, comunque qui già ci direi che ci avviciniamo a una visione anche insomma parzialmente accettabile. Si capisce che il loro intento è descrivere anche teologicamente la condizione dell'uomo come una condizione che evolve, cioè che non è già data piena all'inizio, ma che evolve, come sembra dire la teoria scientifica sulla origine dell'uomo. Penso che il punto qui è distinguere tra un'evoluzione, diciamo, del modo di vivere materiale e un'evoluzione in senso spirituale, cioè niente vieta, anzi, che l'uomo potesse essere già dal punto di vista spirituale in piena comunione con Dio, essere già e poi dopo che ci fosse eventualmente una crescita dell'uomo anche nel modo di vivere, nella cultura, eccetera. Comunque, quindi Flick e Anzeghi, ecco, ci sono poi altre proposte, diciamo, più radicali e più estreme. Queste che abbiamo visto sono in realtà anche quelle più equilibrate. Vi faccio un esempio. Haring, c'è una A con i due puntini sopra. Haring. Con l'H, cioè con l'H davanti, ma anche il nome, non so come si chiamasse. Comunque, H. Haring, che dice, commenta il fatto che il catechismo attuale, come vedremo, accentua, sottolinea il carattere storico del peccato originale. E lui dice, in negativo, nota la mancanza di confronto con le scienze naturali nel catechismo. Queste pagine, dice, lasciano un'impressione di semplificazione troppo marcata. Sarebbe stato molto meglio comprendere le figure di Adamo ed Eva come figure collettive, anziché avanzare ambigui tentativi storicizzanti. Cioè, quello del catechismo sarebbe, secondo lui, un tentativo di storicizzare, dare valore storico al peccato originale, alle figure di Adamo ed Eva, quando invece, a suo parere, bisognerebbe destoricizzare. Quindi Adamo ed Eva sarebbero immagine, simbolo che rappresenta l'umanità intera. Ecco, teniamo presente che questo è possibile vedere in Adamo ed Eva anche figure, diciamo, che rappresentano una totalità, ma sono figure individuali che rappresentano, in quanto progenitori, una collettività. Se togliamo la loro personalità, non rappresentano neanche più niente. E questo anche per Paolo, anche per San Paolo, è evidente che è così. Cioè, per lui Adamo è uno reale, concreto, che è il padre di tutta l'umanità, è quello da cui tutti noi abbiamo ricevuto, invece che la vita, la morte. Come da Cristo, che è uno concreto, tutti riceviamo la vita. Quindi chi dice di vedere una personalità collettiva in Adamo ed Eva, però, diciamo, non va dimenticato che per essere personalità collettiva deve essere, prima di tutto, deve avere una sua esistenza personale. Poi, ecco, altri nomi di persone che sono supposizioni piuttosto estreme: Kraus, De Vigliamonte. Diciamo, poi le idee sono più o meno sempre le stesse, c'è una forte preoccupazione di andare incontro alla visione scientifica dell'origine dell'uomo. Vi leggo un ultimo, per esempio, Korsmeier, che questo identifica il peccato originale con il passaggio dell'uomo all'autocoscienza. In che senso? Lui dice: quando l'uomo diventa cosciente di sé, quando quindi appare l'uomo che ha la coscienza di sé, immediatamente percepisce la sua distanza da Dio e dal bene. E il peccato originale sarebbe proprio la percezione della distanza che esiste tra ciò che l'uomo è e ciò che è chiamato a essere. Questo peccato è intrinsecamente connesso all'evoluzione dell'universo, della vita e dell'uomo. Qui c'è un po' l'idea di Teilhard de Chardin, che il male sarebbe necessariamente accompagna il progressivo avanzare del cosmo dal molteplice verso forme più organizzate, quindi anche appare anche nell'evoluzione dell'uomo in modo necessario. E quindi alla fine dei conti un po' si riconduce sempre a Dio il fatto del male. Per cui mi sembra anche, bisognerebbe approfondire, evidentemente non sono mai delle idee stupide quelle che però ecco, detta così, il fatto che l'uomo percepisca la distanza tra ciò che lui è e ciò che è chiamato a essere, mi sembra che questo si possa definire peccato, soprattutto nella misura in cui è per l'uomo un dato di fatto, in cui lui si trova, e non un frutto di una sua scelta. Quindi per vedere in questo la ragione di peccato mi sembra difficile. Ecco. Questo un po' per descrivere alcune delle posizioni di autori che si collocano in questa, diciamo, tendenza a destoricizzare i racconti di Genesi delle origini, sempre con l'intento di andare incontro alla visione scientifica. Ci sono poi anche proposte invece intermedie, equilibrate, quindi anche in accordo con la dottrina cristiana. E vi do qualche nome, giusto così per... Quindi c'è Schönborn, che mi sembra che sia anche uno particolarmente apprezzato anche dal Papa, no? Arcivescovo di Vienna. Ritiene difficile mantenere lui l'idea che tutti gli uomini hanno la stessa dignità se non sono accomunati da una stessa natura e quindi da una medesima origine. Quindi lui sostiene l'idea di una coppia originaria come richiesta dalla fede, e non contraria neppure alla ragione scientifica. Su questo poi cercheremo di approfondire. Quindi per lui la fede nel fatto che c'è una coppia originaria, cioè questo fatto è richiesto dalla fede. Oppure la Daria, altro autore equilibrato, almeno per quello che mi è dato di capire, di leggere, e lui senz'altro dice che Adamo ed Eva sono, ci sono, esistono, poi completa, dice il primo o i primi peccatori non sono responsabili di tutti i mali, perché dice poi c'è anche il peccato di tutti gli altri, non è che Adamo è effettivamente la causa unica di tutto il male che vediamo, ci mancherebbe. Però dice la situazione di peccato si trascina dall'inizio della storia, e in questo senso il peccato di Adamo ci ha costituiti tutti peccatori, è chiaro che lui sostiene il fatto del peccato originale di Adamo ed Eva. De Margerie e altri, ci sono varie, cioè poi sono, grazie a Dio ci sono parecchi, quelli che si collocano in una posizione rispettosa sia della verità della fede sia conciliabile con i dati scientifici. Allora, proviamo adesso a entrare un po' in questi benedetti dati scientifici, vedere poi qual è, anche allo stato attuale delle conoscenze, l'origine dell'uomo, come viene, insomma, come ce la forniscono i dati della paleoantropologia. Per questo mi baso su Fiorenzo Facchini. Facchini, che è un teologo, cioè lui è sacerdote ed è antropologo, sta a Bologna, come anche alcuni altri che ho citato qua, perché questo libro è di un convegno tenuto a Bologna. Facchini, ci sono anche cose interessanti di lui anche sul sito del DISF, Dizionario di Scienza e Fede, per esempio una cosa molto bella e completa su uomo, identità biologica e culturale, dove entra in dettaglio nella spiegazione dell'origine dell'uomo, spiegando anche quando possiamo dire che c'è l'uomo. Io però mi baserò su questo articolo, su questo suo contributo qua, che è un po' più corto e più sintetico. Allora, lui dice una cosa su cui non vi sono dubbi tra gli scienziati è il processo della ominizzazione, che è avvenuto in seguito alla divergenza tra la linea evolutiva che ha portato alle scimmie antropomorfe e la linea evolutiva che porterà all'uomo. Questa divergenza nell'ambito dei primati, di una specie di primati, c'è stata una divergenza, una parte ha portato alle scimmie e una parte all'uomo. Quindi dire che noi discendiamo dalle scimmie, tra l'altro, a parte la scorrettezza del termine, perché non si tiene conto dell'intervento, diciamo, del salto ontologico che c'è per arrivare all'uomo, e anche, cioè, le scimmie semmai vanno per un ramo, potremmo dire, parallelo, a meno che non chiamiamo scimmie anche i primati. Comunque le scimmie antropomorfe vanno di qua e l'uomo invece, diciamo, e invece nasce una linea che porterà all'uomo. 6-7 milioni di anni fa avviene questa biforcazione. Allora, prima si forma l'australopiteco, che precede la comparsa del genere Homo, e Facchini dice su questo articolo del DISF che l'australopiteco vive più o meno 4-5 milioni di anni fa, circa 4-5 milioni di anni fa. E sempre negli appunti che ci hai dati? No. La data no, datazione no, però sì. Pagina 138, Facchini, è nello stesso file di Castellucci, sì, quello prima. E, ecco, poi dopo l'Australopiteco compaiono le diverse specie che già rientrano nel genere Homo. Prima l'Homo habilis, poi l'Homo erectus e poi l'Homo sapiens. Allora, qui c'è senz'altro il l'Homo habilis appare circa 2 milioni di anni fa, l'Erectus a partire da 1 milione e mezzo di anni fa e fino a circa 200.000 anni fa, e poi l'Homo sapiens. La questione è di quando si può identificare il momento in cui c'è l'uomo. Allora, ecco, però prima di questo mi ero dimenticato una cosa. No, vabbè, ve lo posso dire dopo, come si individua quando c'è l'uomo? I criteri su questo c'è dibattito. Non basta un criterio morfologico, cioè vedere per esempio quanto è grande la scatola cranica, bisogna soprattutto vedere che tipo di quando appare la coscienza di sé e la cultura. La cultura che, ecco, Facchini dice, più significativo è il criterio culturale per identificare le manifestazioni propriamente umane. Quindi l'arte, per esempio? No, prima dell'arte, che viene dopo, che senz'altro è una manifestazione culturale, però la prima manifestazione culturale si potrebbe già considerare il fatto che ci sia una tecnologia con una certa progettualità, cioè che dimostra una conoscenza in grado di astrarre, di pensare all'utilizzo dello strumento per qualcos'altro, di perfezionare lo strumento. Cioè, vedere l'apparizione di determinati strumenti permette di capire che l'uomo era in grado di avere un tipo di intelligenza astrattiva e quindi anche di avere coscienza di sé. Lui dice Facchini, lo psichismo riflesso, cioè la capacità di pensare non solo a sé, ma anche di non semplicemente di conoscere le cose, ma anche di formulare delle riflessioni, dei giudizi. Psichismo riflesso e quindi coscienza di sé debbono contraddistinguere l'uomo dalla sua comparsa. Come li riconosciamo questi? Essi possono riconoscersi anche nei prodotti della tecnologia e nei segni di organizzazione del territorio, che sono gli unici documenti che abbiamo sul comportamento dell'uomo nelle fasi più antiche, cioè come se c'era il territorio organizzato e se faceva degli strumenti. Poi dopo appariranno altre cose, apparirà l'arte, apparirà addirittura poi più tardi la scrittura, eccetera. Oppure, allora, di fatto qualcuno vede già nell'Homo habilis l'emergenza dell'uomo, cioè il fatto che c'è l'uomo. Altri invece sono propensi a vedere l'apparizione dell'uomo, manifestazioni propriamente umane, solo con l'Homo sapiens, cioè circa da 100-150.000 anni a questa parte. Facchini pensa che questa sia un'interpretazione troppo limitata, cioè lui tende a essere un po' più esteso nel tempo. Dice, è presumibile che ci sia stato un momento critico segnato forse da qualche mutazione umanizzante, cioè da qualche mutazione biologica nella struttura fisica dell'uomo, che ha realizzato, ha fornito il supporto biologico per lo psichismo riflesso, cioè perché l'uomo possa effettivamente avere la sua capacità spirituale, no? Facoltà spirituale, occorre però che ci sia un supporto biologico adeguato, cioè un canarino non sarebbe capace di avere confidenza, di avere un pensiero, di avere, perché è vero che questa è una facoltà spirituale, però cioè, si avvale e ha bisogno di un supporto adeguato, di un cervello sviluppato. Quindi lui dice: è possibile che ci sia stato un momento critico segnato forse da qualche mutazione umanizzante che ha realizzato il supporto biologico per uno psichismo riflesso, ma è difficile immaginare come si sia immaginato. Come si sia realizzato questo, come si sia dato questo momento critico. Dice: noi sul piano filosofico e anche nel linguaggio comune riconosciamo nell'anima spirituale l'elemento caratterizzante dell'uomo, elemento che spiega anche il suo comportamento culturale, però cosa succede? Che noi come facciamo a vedere questo? Dobbiamo vederlo dalle osservazioni dei ritrovamenti che abbiamo, quando ci sembra che certi ritrovamenti manifestino la capacità di pensiero astratto, l'autocoscienza dell'uomo. In ogni caso, dice Facchini giustamente, l'emergenza dell'uomo, cioè il fatto che l'uomo, che ci sia l'uomo a un certo momento, proprio a motivo del trascendimento che comporta l'essere umano in forza dello spirito, deve avere richiesto un concorso determinante di Dio. Cioè c'è voluto, in questo momento critico nel quale c'era il supporto biologico adeguato, ma è apparso lo spirito, c'è voluto un concorso determinante di Dio. E cita Giovanni Paolo II, che in un discorso all'Accademia delle Scienze nel 96 diceva che c'è un salto ontologico tra l'animale e l'uomo, un salto superabile con l'intervento di Dio. Quindi, sintetizzando quello che più o meno lui dice, l'uomo si è formato dove e quando Dio ha voluto, nella realizzazione del suo progetto sulla creazione. A qualunque livello della ominizzazione si ponga l'evento, anche se non sappiamo dire bene se nell'Homo habilis, nell'Homo erectus, nell'Homo sapiens, comunque, senz'altro è avvenuto quando Dio ha voluto, e non per una necessità biologica quindi, ma per un progetto di Dio creatore. C'è stato l'uomo sulla terra quando Dio ha fatto di un ominide che poteva supportare biologicamente uno psichismo riflesso, un soggetto pensante, autocosciente e libero. Sembra che effettivamente è chiaro. Però dice, su questo la scienza empirica non può dire nulla. Cioè, nessuno è in grado di affermare come e quando ciò sia avvenuto. Ratzinger, in una sua omelia quando era cardinale, già prefetto della dottrina della fede nell'85, in alcune lezioni in Carinzia, è uscito di recente un libro curato anche da Don Giuseppe Tanzellaniti con la sua prefazione su questo, dice che questo evento della l'apparizione del primo uomo, cioè capace di pensare, non è un evento che si può dissotterrare con la vanga. non è come un manufatto, no. A un certo punto c'è stato l'uomo, ma noi non ne troviamo le tracce così di quell'evento, perché quindi troveremo quelle di altri uomini dopo di lui che hanno lasciato tracce. Questo sarebbe avvenuto su un individuo di tre vari tanti ominidi. Ecco, adesso vediamo. Adesso vediamo. Adesso facciamo. Degli altri ominidi che ci stanno? Li ha messi da parte. No, adesso vediamo, veniamo a questo. Scusate, no, però la prossima volta veniamo a questo.